voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Cosa gli hai venduto, Lloyd? Della roba. Che tipo di roba? Che so, qualche figurina di giocatori, un sacchetto di biglie, pietra. Pietra? Hai venduto la mia uccellina morta a un ragazzo cieco. Lloyd, quel tu come hai potuto... Petra non aveva neanche la testa! Harry, ci ho pensato io. seconda parte di Eclettica, del volume numero 2 di Eclettica, quello che originariamente va in onda il martedì fra le 19 e le 20, aperta dall'artista francese. Questa seconda parte è di nome Joachim, tipicamente abituato a altri territori dal punto di vista musicale, proviene dalla techno, ma è uscito recentemente con un album in cui è il pop a farla da padrone. Rocket Pearl è il pezzo ascoltato quest'oggi in Eclettica, che viene seguito da una band inglese, I Was a Cub Scout, con I Hate Nightclubs. Garzon non capiva perché quel cadavere mi colpisse tanto e non riusciva nemmeno a spiegarsi la natura della mia emozione. Secondo lui, ormai avevamo visto più morti di Napoleone e Nelson messi insieme e non si poteva certo dire che quella mattina al Parque della Ciudadela fosse il campo di Waterloo dopo la battaglia. Un barbone sdraiato su una panchina, questo era tutto. Sembrava semplicemente che fosse rimasto addormentato e che, nonostante quello che gli stava capitando intorno, non si fosse ancora svegliato. Questo era l'incipit di un bastimento carico di riso, di Alicia Jiménez Bart. You how to hide. stared down the crowd. Give me a needle and a clinic for you. Cosa? Che è successo? Hai fatto cadere il sale. Ecco cosa è successo. Fare cadere il sale porta una sfiga tremenda. Stiamo viaggiando in macchina e l'ultima cosa che ci serve è la sfiga. Presto, getta subito un po' di sale dietro la spalla destra. Ma che diavolo? Oh oh. Avanti, chi è l'uomo morto che mi ha tirato la saliera? Do Da settimana scorsa ho a disposizione quello che sarà l'album d'esordio dei californiani Lavender Diamond appena ascoltati, e quindi sono andato a estrarre esattamente come avevo già fatto 7 giorni fa Open Your Heart. E sempre da settimana scorsa ho a disposizione anche quello che è il nuovo dei Laundrette, la band marchigiana arrivata ad una nuova prova dal titolo Estate of Form, e da quell'album ci ascoltiamo proprio la title track, Estate of Form, Laundrette. Di solito mi divertono le battute di Garzon, anzi, quasi sempre. In generale prende spunto, con umorismo crudo, dai casi a cui stiamo lavorando. Niente da obiettare, ormai non esiste più nulla di sacro a questo mondo, e non vedo perché debba essere considerato tale l'esercizio della nostra professione. Eppure, nella primissima fase di un'indagine per omicidio, con il cadavere ancora steso nel luogo del delitto, la sua ironia mi mette un po' a disagio. Questo era l'incipit de Il caso del lituano di Alicia Giménez Bartlett. Run from body, shadows on the stylist's blank face. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 32, volume numero 2. Indice, Soul Seppi, Forget Cassettes, Best Friends, Unaddare, Auschka, Cherry Overdrive, Joachim, I Was a Cub Scout, Black Eyed Dog, Lavender Diamond, Londrette, Alex Delivery.